erano circa le 22, il vento fischiava tra le fessure degli aghi di pino che scendevano dalla collina. Nell'aria filtrava un profumo di jazz che si mischiava alla lavanda gourmet e si percepiva un certo non so che. Un'anima blues vestita di rock faceva le scale, quasi volando le ali ai piedi che Mercurio le regalò. Sfiorava le cose senza toccarle, come l'amore quando lo pensi, come la menta quando l'annusi, come la musica nella vita. Il mondo d'un tratto si risvegliò e titubante iniziò a seguirla, sicuro di scoprire meandri di storie segrete. E piano piano uscì dall'orbita, prese a solcare nuovi spazi, e salì sul palco e in mezzo alle stelle e senza respiro ha cominciato a ballare. E senza respiro, senza peso, il sogno divenne realtà. Aveva capelli lunghi azzurri come ruscelli sulle montagne, occhi profondi come gli abissi del mare. Il tempo si frantumò in milioni di petali e in un baleno sparì. Di un brivido dolce dal retrogusto corposo di sale. Ci domandiamo se esiste davvero un'anima pura, uno sguardo sincero che faccia rinascere il sole quando fa freddo fuori. E ad ogni solstizio e ad ogni equinozio lei torna a ballare nel nostro teatro, spicca il suo volo e poi s'avvita come un tonnato. Solleva la polvere dei camini, accende il fuoco dei nostri destini, si ferma un momento che sembra eterno e poi improvviso lei ricomincia a ballare. E senza respiro, senza peso, il sogno diventa realtà. I suoi capelli lunghi azzurri come il cielo tra nuvole bianche, occhi profondi come gli abissi del mare. Diventa una vela che prende il largo e sparisce alle 22.